venuto stasera? Bella domanda. Se ti dicessi che mi manca il tuo cane, ci crederesti che in cucino tutto tranne che il sale me lo daresti? C'ho una spina in gola che mi fa male, fa male, fa male. Fammi un'altra domanda, che non riesco a parlare. Quel che vorrei dirti stasera è: non è importanza, è solo che a guardarti negli occhi mi ci perdo. Quando il cielo è silenzioso mi nevica dentro. Se giurassi di dormire con te, non toccarti, toccarti, toccarti. Ma certo, vuoi dormire col cane. Sai quanta gente ci vive coi cani e ci parla come gli esseri umani. Intanto i giorni che passano accanto li vedi partire come treni che non hanno i binari. Mali di carte, quanti inutili scemi per strada o su Facebook che si credono geni, ma parlano a caso mentre noi ci lasciamo. Di notte piangiamo e poi dormiamo coi cani. Sei accorta anche tu che siamo tutti più soli, tutti col numero 10 sulla schiena e poi sbagliamo i rigori. Ti sei accorta anche tu che in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin. Proprio strana la vita, ci somiglia, è una sala d'aspetto affollata e di provincia. C'è un bambino di fianco all'entrata che mi guarda e mi chiede perché. Perché passiamo le notti aspettando una sveglia, sprendiamo una cotta per la prima disonesta, complichiamo i rapporti come grandi cruciverba e tu mi chiedi perché. Fammi un'altra domanda, che non riesco a parlare. Sai quanta gente sorride alla fine e se la canta aspettando il domani. Intanto i giorni che passano accanto li vedi partire come treni che non hanno i binari eppure vanno in orario. Quanti inutili scemi per strada su Facebook che si credono geni ma parlano a caso mentre noi ci lasciamo. Di notte piangiamo e poi dormiamo coi cani. Mentre noi ci lasciamo, di notte piangiamo e poi dormiamo coi cani. Mentre noi ci lasciamo, di notte piangiamo e poi dormiamo coi cani. Sei accorta anche tu che siamo tutti più soli, tutti col numero 10 sulla schiena e poi sbagliamo i rigori. Sei accorta anche tu che in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin. Come mai sono venuto stasera? Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.